esempi di una visita che avvenne, sì, tanti anni fa, proprio sul principio del mio ministero. Attraverso la radio conobbi una signora, ci aveva ascoltato, mi scrisse. Io la visitai, le parlai del Signore, del ravvedimento e della vita a venire. E la visitai diverse volte, era una vecchietta, infatti dovrei dire una vecchia proprio piccolina, erano venuti gli acciacchi e non poteva più camminare bene. Un giorno mi chiamò al telefono e mi disse: «Senta, ho bisogno di parlarle, ma venga solo, perché ho qualche cosa da dirle in confidenza». E quello che mi disse è sempre stato tenuto in confidenza. Lei è morta ormai da anni e anni, nessuno sa di chi io parlo in questi programmi, e poi questi programmi sono trasmessi a migliaia di chilometri da dove lei viveva, ed è per questo che ve ne parlo, e lo faccio perché c'è qui una grande lezione da imparare che spero porti giovamento a certi dei nostri ascoltatori. Quella sera andai a trovare quella signora, suonai il campanello e, come usualmente faceva, gridò dal di dentro: «La porta è aperta, venga dentro!». Entrai e lei mi aspettava in salotto. Aveva preparato il caffè espresso e appena entrai me ne porse una tazzina e io lo bevvi parlando del più e del meno, sempre aspettando che mi rivelasse la ragione per quella visita. E il discorso cadde, come sempre, sulla religione, sul Vangelo, e mi fece alcune domande sulla salvezza. Mi chiese d'un tratto se io credevo nell'inferno. Sì, le dissi, sì, ci credo, sì, la Bibbia ne parla, lo insegna, io ci credo, ma cara signora, sono proprio qui per dirle che grazie a Cristo Gesù noi non dobbiamo preoccuparci per l'inferno se noi accettiamo la sua salvezza. Ma, mi disse lei, come fa lei a sapere che Gesù salva tutti? E me lo domandò assai seriamente. E io risposi: lo so perché la Bibbia dice che egli è abile di purificarci da ogni peccato. Infatti il profeta Isaia ci dice che il peccato, se fosse pure scarlatto, diverrà come neve, se fosse al par di grana diventerà bianco come la neve. E le citai il ritornello di uno dei nostri inni che lei sembrava apprezzare e che conteneva appunto le promesse che Dio ci fa in Isaia 1,18. Poi mi disse: ma può il Dio perdonare anche chi ha indotto altre persone a fare peccati? Io rimasi un po' stupefatto e infatti voglio ripetere questa domanda: può il Dio perdonare chi ha indotto altre persone a fare dei peccati? Vedete, quella domanda è rimasta dentro di me e vi dico, restai completamente sorpreso e senza poter dar risposta. Cosa avreste voi risposto? Può il Dio perdonare una persona che ha indotto un'altra persona a peccare? Finalmente cominciai a parlare senza neppure sapere quello che stavo per dire e dissi: ma signora, perché si preoccupa di queste cose? Lei è sempre stata una buona donna e perché mai mi fa questa domanda? Mi sta parlando di altre persone? Lei mi guardò seriamente e mi disse: da quanto tempo lei vive in questa zona? Oh, da 7 o 8 anni, risposi. Lei allora non era qui durante la grande depressione degli anni 30? No, cara signora, non c'ero, no. Infatti era appena un bambinello in quel tempo. Ebbene, allora lei non sa chi sono io. Ma le risposi: veramente no. Come si dichiarava, era una vedova e aveva un figlio che viveva là vicino. Ebbene, non sapevo altro. Allora dissi: ma no, io non posso dirle proprio niente, non so troppo di lei. E allora lei mi disse: ora le confesso qualche cosa. Beh, tutti lo sanno, tutti quelli che erano qui in quei tempi lo sanno, non è un segreto. Vede, in quegli anni noi avevamo un bar o un salone giù sulla strada che va ai cimiteri e si vendeva il whisky di contrabbando. Sa, lo vendevamo nelle tazzine del caffè come fosse caffè. E la polizia lo sapeva, ma nessuno diceva nulla. Beh, la interruppi io col mio viziaccio di non far finire le persone di parlare. Sa, tante persone l'hanno fatto, uno zio di mio padre pure lo faceva, erano i tempi e sì, quello era male, ma non so se vendere il vino e whisky può classificarsi come peccato. E poi vede signora, era suo marito che lo vendeva, lei, e lei mi interruppa e mi disse: ma mi faccia parlare. Sì, sì, mio marito vendeva il whisky, ma su, sopra il salone, noi avevamo le camere e ci tenevamo le ragazze. E io ero quella che le guardavo, disse abbassando gli occhi. Io era quella che le tenevo lì e che ci mandavo gli uomini. Ma mi capisce cosa voglio dire? Eh sì, purtroppo capivo. Finalmente avevo capito ciò che la turbava. Mi disse, tante povere ragazze sono passate di là. Erano anni duri, non c'era lavoro, e c'era una grande miseria, e loro venivano da me per cercare lavoro e io le mettevo su, li tenevo lì e poi ci mandavo gli uomini. Oh, quanti peccati, quanti peccati! E piangeva. Sì, disse poi, si accumulò un bel gruzzolo di denaro. Ma a che cosa mi serve ora tutto questo denaro? Sono vecchia, nessuno mi vuol parlare perché si ricordano quello che ho fatto. Mio figlio appena appena mi visita ed eccomi qui ammalata, non posso camminare e non vedo nessuno. E non mi lamento, mi ci sta bene, lo so, Dio mi punisce e va bene, ma ora devo morire e sono dannata. Cari amici, vi dico che davanti a quella vecchietta io proprio restai senza parole. Era lì, inchiodata su una seggiola, rincartapecorita, piangeva, davvero era a disagio. Quelle sue parole, quel suo sguardo disperato non lo dimenticherò mai più. Io devo morire e sono dannata. Amici, che avreste fatto voi? Non so perché, forse, per certo, devo dire, lo spirito mi stava guidando. E allora io allungai una mano, le presi una delle sue mani fra le mie, era una mano così piccolina, la strinsi e la guardai e le disse, Signora, Gesù l'ama. Gesù è morto anche per lei. Gesù può perdonarla se lei si pente di quello che ha fatto. Se lei ora qui implora la sua misericordia e il suo perdono, Gesù la perdona ora. No. No, mio caro, mi disse, non può essere così facile. Lei è troppo giovane, non sa. Non mi conosce, non sa cosa dice la gente di me. E ha ragione, le risposi, ha ragione, sono giovane, no, non so cosa dice la gente di lei, ma vede, io so quello che dice Dio. Mi ascolti. E così dalle scritture le lessi l'orribile storia del peccato di Davide, le ricordai il diniego di Pietro, le persecuzioni di Saulo, le raccontai la testimonianza di un pastore mio amico, un messicano che uccise un uomo e che condannato a morte, poi salvato per la grazia di Dio, cambiò così tanto vita che lo commutarono ad ergastolo e poi infine lo lasciarono andare, divenne un predicatore e convertì così tante persone al Signore. Così parlammo di queste cose, parlammo del perdono che Dio può dare a tutti, ma lei tornava a dirmi, e quelle donne, e quegli uomini, loro, chi ce li leva dall'inferno? Tutti i peccati che loro hanno commesso, ormai sono morti, chi ce li leva dall'inferno? Il rimorso la rodeva. No, no, nessuno poteva levarli dall'inferno se c'erano andati, se erano morti senza Cristo, ma le dissi perché loro sono andati in questa condizione nell'altra vita, non c'è ragione perché lei ci vada, si penta, si ravveda, creda nel Vangelo, creda nel Signor Gesù Cristo che la salva, perdonò il ladrone sulla croce, perdona anche lei, via, preghi con me. No, no, non volle pregare. Non volle chiedere perdono e disse io muoio dannata, io vado all'inferno. Era notte inoltrata quando la lasciai. Le promisi di tornare a visitarla e per alcune settimane fui occupatissimo. Poi una sera tornai, ma la porta era chiusa, nessuno rispondeva. Fu una vicina che venne fuori e mi disse che la donna era morta pochi giorni prima. Una sconfitta. Un'anima persa. Oh, cari amici, vedete, se il peccato è nel nostro cuore, vedete, ci non lascia mai, ci roda, ci turba, è come un tarlo che indurisce il nostro cuore. Oh, confessate a Dio le vostre colpe, poi credete alle promesse della Bibbia che ci garantisce che chi confessa il suo peccato e lo abbandona otterrà misericordia e accettiamo la salvezza che il Signore ci dà. Cari amici, se anche voi siete in queste condizioni, se c'è qualcuno che è roso dal rimorso, dal peccato, sappi che il Signore lo ama, Gesù è morto per voi, è pronto a salvarvi, è pronto a darvi nuova vita. E se pensate che vi aiuta a comunicare con noi, scriveteci e noi vi risponderemo personalmente.